24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano ancora l'emergenza immigrazione, con l'Italia quasi completamente isolata. Durissimo il ministro dell'interno Roberto Maroni. Mi chiedo se abbia senso restare nell'Unione, afferma da Lussemburgo. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano intanto avverte: non scherziamo sull'Europa. Ma andremo anche in Francia con le polemiche sul velo. In Svizzera, dove un movimento euroscettico trionfa alle elezioni cantonali in Ticino, fino a portarvi a Venezia per una mostra molto made in Europe. In apertura, come dicevamo, lo scontro aperto tra Italia e Unione Europea sulla questione immigrazione. L'Italia sta violando lo spirito delle regole di Schengen, ha dichiarato il ministro dell'interno tedesco Hans-Peter Friedrich. La solidarietà in Europa deve essere condivisa solo quando un paese è realmente colpito da un problema di immigrazione di massa, e questo non è il caso dell'Italia, ha puntualizzato Friedrich, ribadendo: noi ci aspettiamo che l'Italia rispedisca gli immigrati in Tunisia. Per Roma quella di ieri è stata una vera e propria catastrofe diplomatica, con l'Italia praticamente isolata nelle sue posizioni insieme a Malta. Durissimo lo scontro con la Germania, ma resta alta la tensione anche con la Francia. Il ministro dell'interno transalpino Claude Guéant ha annunciato che Parigi schiererà una compagnia della Guardia Repubblicana a rinforzo della polizia per controllare il rispetto delle regole della Convenzione di Schengen. I gendarmi rinvieranno in Italia i migranti dotati di permesso di soggiorno ma senza mezzi sufficienti per vivere. E il ministro dell'interno italiano Roberto Maroni affonda: ha senso continuare a far parte dell'Unione Europea? Per ora l'Italia è lasciata sola a fare quello che deve fare e che continuerà a fare. Non nasconde la sua delusione il ministro dell'interno Maroni al termine del vertice di Lussemburgo. Il responsabile del Viminale non punta tanto il dito verso la Commissione Europea quanto verso i governi degli altri stati membri. La linea passata, spiega Maroni, è quella che l'Italia deve fare da sola, ma noi, aggiunge il ministro, quando c'è stato bisogno abbiamo espresso la nostra solidarietà a Grecia, Irlanda e Portogallo. Mi chiedo se davvero abbia un senso continuare in questa posizione, a far parte dell'Unione Europea. L'unica nota positiva per il ministro Maroni è aver constatato che i permessi di soggiorno rilasciati dall'Italia sono validi. L'Europa resti con il suo egoismo, noi troveremo altre soluzioni, attacca intanto il ministro degli esteri Frattini. Critica l'opposizione, gli apprendisti stregoni della propaganda, dice dal PD Bersani, sono finiti vittime della loro azione, adesso ci lasciano nei guai. Resta infine il monito del presidente della Repubblica Napolitano, che ricorda: non scherziamo sull'Europa, no a dispetti, ritorsioni o addirittura separazioni. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dispiace se il ministro Maroni è deluso, nessuno vuole che l'Italia abbandoni l'Unione Europea, così la commissaria Cecilia Malmström. Abbiamo fatto molto per sostenere l'Italia, ha aggiunto la Malmström, sottolineando che i tempi sono difficili, le sfide sono enormi. A Lampedusa intanto ancora proteste dopo la partenza del primo volo di rimpatrio con a bordo 30 tunisini all'interno del centro di accoglienza. Decine di immigrati, dopo aver capito che a loro sarebbe toccata analoga sorte, si sono arrampicati su alcuni cancelli e hanno cominciato a urlare libertà, libertà. Nelle ultime 24 ore sono sbarcate a Lampedusa altre centinaia di persone e 3 scafisti sono stati arrestati. Ma oggi cominciano anche i rimpatri, decisi a seguito dell'accordo siglato la settimana scorsa con le autorità tunisine. I primi a partire saranno 30 uomini, ciascuno accompagnato da 2 poliziotti. Pare che la situazione nel campo a Lampedusa sia tranquilla, ma pare anche che i migranti non sappiano che saranno trasferiti a Tunisi e non in Italia. Sono invece in coda volentieri davanti alle autorità gli immigrati nella tendopoli di Manduria, in Puglia. La questura di Taranto ha aperto un ufficio immigrazione direttamente nel campo. Ci lavorano 8 poliziotti ed è aperto dalle 7 alle 21. Dei 1.300 ospiti del campo, in 1.000 hanno già presentato richiesta per il permesso temporaneo, ma probabilmente lo faranno tutti, perché il permesso arriverà subito, mentre chi chiede asilo politico rischia il rimpatrio se non lo ottiene entro i termini di legge. Tra pochi giorni, infatti, è prevista la consegna dei primi permessi, carte magnetiche, prodotte e inviate direttamente dalla zecca di Stato. Sono lascia passare, a corto raggio però, ma anche questo i migranti non lo sanno. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. L'Unione Europea sostiene gli sforzi di mediazione dell'Unione Africana per cercare di dare una soluzione politica alla crisi libica. Lo ha detto il portavoce dell'alto rappresentante della politica estera Catherine Ashton. La Ashton sarà domani al Cairo alla conferenza ONU sulla Libia con rappresentanti della Lega Araba e dei paesi africani. Sono questi ultimi soprattutto a trattare il servizio da Tripoli. Ieri è arrivata la delegazione dell'Unione Africana. Sono stati i primi aerei che si sono visti dopo settimane a causa del no-fly zone, appunto, che vieta il sorvolo aereo sul territorio libico. In sostanza hanno parlato pochi minuti, forse una mezz'ora, con Gheddafi all'interno del campo di Bab el-Azizia. Siamo riusciti ad arrivare sotto la tenda, dopodiché sono usciti i delegati, è stato letto un comunicato e pare che da parte governativa siano state accettate le proposte della delegazione della missione dell'Unione Africana, e poi oggi sarebbero partiti alla volta di Bengasi per cercare di convincere anche l'altra parte in campo, che sono appunto i ribelli. I ribelli hanno sempre chiesto, prima di qualsiasi trattativa, l'allontanamento di Gheddafi e del suo clan. Non è possibile farlo da questo lato, non accetteranno mai questo tipo di soluzione. Ora sta a vedere se all'interno della componente dei ribelli si riuscirà a trovare qualcuno che è più disponibile ad avviare una sorta di mediazione, e quindi che riesca a convincere anche le ali più radicali. Andiamo ora in Francia, dove è entrata in vigore la legge anti-velo. Sarkozy l'ha voluta solo per conquistarsi i voti dell'estrema destra, dicono gli oppositori, e le francesi musulmane assicurano: disobbediremo. On a frappé quelqu'un, on a tué quelqu'un, on a volé, on a rien fait. Pourquoi on va payer des amendes? Abbiamo picchiato, ucciso qualcuno, abbiamo rubato, non abbiamo fatto niente. Perché ci devono multare? Si chiede una delle circa 2000 donne, si stima, che in Francia indossano il velo islamico, proibito da oggi da una legge fortemente voluta da Sarkozy. La normativa, approvata ad ottobre, impone il divieto di indossare il velo integrale nei luoghi pubblici, non solo dunque per strada, ma anche in ospedale, nelle biblioteche, nei ristoranti o nei musei. Chi si ostina a portare il niqab rischia 150 euro di multa, a cui si possono aggiungere corsi di educazione civica. Peggio ancora per gli uomini, che impongono il velo ad una donna. Per loro le multe possono arrivare fino a 60.000 euro, ma le musulmane, abituate a coprirsi il viso, non ci stanno. Ah no, je l'enlèverai. Loi ou pas loi, pour moi c'est pas eux les maîtres, c'est pas eux qui décident. Non me lo toglierò sicuramente, afferma questa donna. Legge o non legge, non sono loro che decidono, ma Dio. E nel primo giorno di divieto non sono mancate le proteste. Kenzer Drider, 32 anni, seguita dalle telecamere, ha preso il treno velata da Avignone a Parigi. Qui, davanti a Notre Dame, questa mattina è stato organizzato un presidio di protesta. 59 persone, tra cui 19 donne con il niqab, sono state fermate solo perché la manifestazione non era autorizzata e non per il velo, ha assicurato la polizia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora l'economia. Apriamo con la borsa negativa. Milano. Brilla l'automatica in una giornata tutto sommato grigia per Piazza Affari e per le altre borse europee. Il più 6,7% con cui le azioni del gruppo di giochi e scommesse hanno chiuso le negoziazioni è stata la risposta del mercato ai giudizi positivi espressi da diverse case d'affari sul titolo della società romana. Gli analisti si aspettano che nel 2011 l'automatica riporti margini superiori al previsto. In calo sul listino milanese le Parmalat. La decisione del Tribunale di Parma, che ha respinto il ricorso dei francesi di Lactalis sul rinvio a giugno dell'assemblea, ha consigliato agli operatori di vendere. Le azioni hanno perso l'1,3%, mentre il mercato attende di capire se prima del raduno dei soci, fissato per il 25 giugno, sarà battaglia tra Lactalis e la cordata italiana in via di formazione, o se si arriverà ad un accordo per il controllo del gruppo emiliano. Da Radio Cora, Andrea Fontana per Radio 24, Il Sole 24 Ore. La vicenda Parmalat. Il Tribunale di Parma ha respinto l'istanza di sospensione presentata da Lactalis contro la delibera del CDA Parmalat, che ha rinviato l'assemblea. Dunque il giudice ha dato ragione alla cordata italiana. E un mese dopo il terremoto in Giappone, quali rischi per la salute e per le importazioni dei prodotti alimentari in Europa? Valeria De Rosa lo ha chiesto a Carlo Lavecchia, capo del Dipartimento di Epidemiologia dell'Istituto Mario Negri di Milano. La zona con l'eccesso di rischio, in modo cautelativo peraltro, è stata delimitata e quindi sono prese delle misure per la popolazione, e al di fuori di questa zona, per quanto i livelli di radioattività siano più alti che non normalmente, possiamo dire che non rappresentano un rischio apprezzabile per la salute. Quindi, per quanto riguarda il rischio nell'acqua, perché abbiamo letto appunto questo grande sversamento di acqua contaminata nel mare, a questo punto rischi per la salute, ad esempio dei bagnanti o anche invece dei prodotti ittici? Allora, io immagino che in quella zona per un po' non si faccia il bagno, e questo però non è un problema maggiore, e immagino anche che i prodotti ittici che vengono da quella zona, che peraltro non vengono da noi ma potrebbero andare sui mercati giapponesi, vengano controllati. Lei come valuta il fatto che per esempio la Commissione europea ha abbassato ulteriormente i livelli consentiti di radioattività per un maggior controllo proprio su tutti gli alimenti che arrivano dal Giappone? L'area contaminata dal punto di vista degli alimenti è maggiore dei 20 km, i 20 km sono per la popolazione, ma l'area contaminata dal punto di vista agricolo è probabilmente più ampia. Mi sembra improbabile che molti alimenti vengano da quelle aree, però un controllo è ragionevole. E come ha cambiato invece la percezione del nucleare la tragedia giapponese? Sempre Valeria De Rosa ne ha parlato con Carlo Carraro, rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Lei pensa che l'incidente di Fukushima potrà determinare cambiamenti non solo in Giappone ma anche nel resto del mondo dopo, diciamo, il primo impatto che è stato emotivo per tutti? Poco, potrà cambiare qualcosina in Europa, ma dove già aveva poco senso investire nel nucleare, ormai della produzione di energia elettrica in Europa è abbastanza satura e il terreno di sviluppo, la direzione da intraprendere è quella delle rinnovabili. A livello mondiale però il fabbisogno di energia invece sarà crescente, sarà importante e almeno nel medio periodo, tra qui e il 2050, andrà sopperito con produzione di energia nucleare. E ora in Svizzera, dove la Lega dei Ticinesi di Giuliano Biniasca, movimento euroscettico e anti-italiano, ha registrato un trionfo alle cantonali in Ticino che si sono svolte domenica, ottenendo quasi il 30% dei voti, circa l'8% in più rispetto al 2007. Ecco l'esultanza di Biniasca e della piazza. Vittoria! I padroni del Ticino siamo noi adesso! Abbiamo vinto e comandiamo noi! Va bene? Se con Roma le cose non cambiano, li tagliamo i frontalieri, ha minacciato Biniasca subito dopo la vittoria. Ora la cultura. 19 artisti e 60 opere circa per indagare l'identità dell'artista e la sua messa in discussione sono i protagonisti di Elogio del Dubbio, la nuova mostra allestita fino a fine anno a Punta della Dogana a Venezia. Molti gli artisti europei. La curatrice dell'esposizione è Caroline Bourgeois, mentre il direttore di Punta della Dogana, di proprietà della Fondazione Pinault, così come di Palazzo Grassi, è Martin Bethrenot. Lo ha intervistato Adriana Fracchi. Tutto l'arte del mondo di tutte le epoche parla del dubbio, però è chiaro che l'arte contemporanea è forse più delle altre un'arte che fa delle domande, un'arte che non è fatta di certezze, però invece di domande. E il dubbio è una dimensione importantissima, una dimensione motrice dell'arte, degli artisti e anche per ogni visitatore. Abbiamo le opere di 19 artisti, molto molto diversi, delle generazioni diverse, opere degli anni 60 fino a opere che sono state fatte oggi, che sono state appena terminate la settimana scorsa, opere con registri molto diversi, dal minimalismo all'oggetto, all'installazione, però tutti hanno una cosa comune che deve essere una messa in questione, un dubbio, un rifiuto delle certezze. Elogio del Dubbio è una mostra molto interiore, molto meditativa. Sono sicuro che questa stagione a Venezia sarà il punto d'incontro del mondo dell'arte contemporanea internazionale. Per chiudere lo sport, l'America sbarca sempre di più nel calcio europeo. In attesa che Tom Di Benedetto firmi per l'acquisto della Roma, in Inghilterra l'Arsenal ha consolidato il rapporto con il suo patron statunitense. Il miliardario americano Stan Kroenke è infatti diventato azionista di maggioranza di Gunners. La Kroenke Sports Enterprises è entrata progressivamente nel capitale del club inglese, passando al 63%. E sul fronte degli appuntamenti di oggi vi segnaliamo a Lussemburgo il vertice dei ministri degli affari esteri e quello dei ministri della giustizia europei, sempre nel Granducato. Alla Commissione Ambiente dell'Europarlamento voto sul progetto per consentire o meno agli Stati membri di decidere se permettere le coltivazioni OGM. In Commissione Trasporti il voto sulla tassazione a carico di autoveicoli pesanti, l'Eurovignetta. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa, una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa. In collaborazione con Euronet.